Atto secondo della Mandragola di Niccolò Machiavelli. Questa è una registrazione di LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito librivox.org. Chi non fa prova, Amore, amore, della tua gran possanza, costanza, indarno spera di far mai fede fede vera, vera, qual sia del cielo il più alto ove, valore. né Né sa sa come come si si vive vive insieme insieme e e muore, muore, come si segue il danno e il ben si fugge. come s'ama se stesso men d'altrui, come spesso timore e speme i cuori Cuore agghiaccia ghiaccia e e strugge. strugge. Né sa come ugualmente uomini e dei paventan l'arme di che armato siei. Atto secondo, scena prima. Ligurio, Messer Nicia, Siro. Come vi ho detto, io credo che Dio ci abbia mandato costui perché voi adempiate il desiderio vostro. Egli ha fatto a Parigi esperienze grandissime e non vi maravigliate se a Firenze e non ha fatto professione dell'arte, che nessuto cagione prima per esser ricco, secondo perché egli è ad ogni ora per tornare a Parigi. Ormai, frate, sì, cotesto bene in porta, perché io non vorrei che mi mettessi in qualche lecceto e poi mi lasciassi in sulle secche. Non dubitate di cotesto, abbiate solo paura che non voglia pigliare questa cura, ma se la piglia, e non è per lasciarvi in fino che non ne vede il fine. Di cotesta parte io mi vo' fidare di te. Ma della scienza io ti dirò ben io come io li parlo, se egli è uom di dottrina, perché a me non venderà egli vesciche. E perché io vi conosco, vi meno io a lui, a ciò gli parliate. E se parlato gli avrete, e non vi pare per presenzia, per dottrina, per lingua, uno uomo da mettergli il capo in grembo, dite che io non sia adesso. Orsia, al nome dell'Agnol Santo andiamo. Ma dove sta egli? Sta in su questa piazza, in quell'uscio, che voi vedete a dirimpetto a voi. Sia con buon'ora. Ecco fatto. Chi è? Evvi Callimaco? Sì, eh? Che non di tu, maestro Callimaco? E non si cura di simil baie. Non dire così. Fa il tuo debito e se l'ha per male, scingasi. Atto secondo, scena seconda. Callimaco, Messer Nicia, Ligurio. Chi è quello? Che mi vuole? Bona dies, domine magister. Et vobis bona, domine doctor. Che vi pare? Bene, alle guagnele. Se voi volete ch'io stia qui con voi, voi parlerete in modo che io vi intenda, altrimenti noi faremo due fuochi. Che buone faccende. Che so io? Vo' cercando due cose che un altro per avventura fuggirebbe. Questo è di dare briga a me e ad altri. Io non ho figliuoli e vorrene, e per aver questa briga vengo a dare impaccio a voi. A me non fia mai di scaro fare piacere a voi ed a tutti gli uomini virtuosi ed a bene come voi. E non mi sono a Parigi affaticato tanti anni per imparare per altro se non per potere servire a pari vostri. Gran mercè. E quando voi avessi bisogno dell'arte mia, io vi servirei volentieri. Ma torniamo ad rem nostram. Avete voi pensato che bagno fussi buono a disporre la donna mia ad impregnare? Ch'io so che qui Ligurio vi ha detto quello che vi s'abbia detto. Egli è la verità, ma a volere adempiere il desiderio vostro è necessario sapere la cagione della sterilità della donna vostra, perché le possono essere più cagioni. Nam causa sterilitatis sunt, aut in semine, aut in matrice, aut in strumentis seminaris, aut in virga, aut in causa extrinseca. Costui è il più degno uomo che si possa trovare. Potrebbe oltre di questo causarsi questa sterilità da voi per impotenza, e quando questo fussi non ci sarebbe rimedio alcuno. Impotente io? Oh, voi mi farete ridere. Io non credo che sia il più ferrigno e il più rubizzo uomo in Firenze di me. Se cotesto non è, state di buona voglia che noi vi troveremo qualche rimedio. Sarebbeci egli altro rimedio che bagni? Perché io non vorrei quel disagio e la donna uscirebbe di Firenze malvolentieri. Sì, sarà. Io vo rispondere io. Callimaco è tanto rispettivo che è troppo. Non mi avete voi detto di sapere ordinare certa pozione che indubbiamente fa ingravidare? Sì, io, ma io vo ritenuto con gli uomini che io non conosco, perché io non vorrei mi tenesse in un cerretano. Non dubitate di me, perché voi mi avete fatto meravigliare di qualità che non è cosa che io non credessi o facessi per le vostre mani. Io credo che bisogni che voi veggiate il segno. Senza dubbio, non si può fare di meno. Chiama Siro, che vada col dottore a casa per esso, e torni qui, e noi l'aspetteremo in casa. Siro va con lui, e se vi pare, messer, tornate qui subito e penseremo a qualche cosa di buono. Come, se mi pare? Io tornerò qui in uno istante che ho più fede in voi che gli ungheri nelle spade. Atto secondo, scena terza. Messer Nicia, Siro. Questo tuo padrone è un gran valente uomo. Più che voi non dite. Il re di Francia ne deve fare conto. Assai. E per questa cagione e debbe stare volentieri in Francia. Così credo. E fa molto bene. In questa terra non ci è se non cacastecchi, non ci s'apprezza virtù alcuna. Se egli stesse qua non ci sarebbe uomo che lo guardasse in viso. Io ne so ragionare che ho cacato le curatelle per imparar due hack. E se io ne avessi a vivere, io starei fresco, ti so dire. Guadagnate voi l'anno 100 ducati? Non 100 lire, non 100 grossi, o va. E questo è che chi non ha lo stato in questa terra dei nostri pari non trova cani che gli abbai. E non siamo buoni ad altro che andare a mortori, o alle ragunate d'un mogliazzo, o a starci tutto il dì sulla panca del proconsolo a donzellarci. Ma io ne li disgrazio. Io non ho bisogno di persona. Così stessi che sta peggio di me. Non vorrei però che le fossino mie parole. Ch'io avrei di fatto qualche balzello o qualche porro di drietro che mi farebbe sudare. Non dubitate. Noi siamo a casa. Aspettami qui. Io tornerò ora. Andate. Atto secondo, scena quarta. Siro, solo. Se gli altri dottori fossino fatti come costui, noi faremmo a sassi per forni. Che sì che questo tristo di Liguria, questo impazzato di questo mio padrone lo conducano in qualche luogo, che gli faranno vergogna. E veramente io lo desidererei, quando io credessi che non si risapessi, perché risapentosi io porto pericolo della vita, e il padrone della vita e della roba. Egli è già diventato medico. Non so io che disegno il fia in loro e dove si tenda questo loro inganno, ma ecco il dottore che ha un orinale in mano. Chi non riderebbe di questo uccellaccio? Atto secondo, scena quinta. Nicia, Siro. Io ho fatto d'ogni cosa a tuo modo, di questo voglio che tu faccia mia. Se io credevo non avere figliuoli, io avrei preso piuttosto per moglie una contadina. Che se costì, Siro? Viemmi dietro. Quanta fatica ho io durata a fare che questa monna sciocca mi dia questo segno. E non è dire che la non abbi caro di fare i figliuoli, che la ne ha più pensiero di me. Ma come io le vo far fare nulla, egli è una storia. Abbiate pazienza. Le donne si sogliono con le buone parole condurre dove altri vuole. Che buone parole! Che mi affracido! Va ratto, di al maestro e da Ligurio che io son qui. Eccogli che vengono fuori. Atto secondo, scena sesta. Ligurio, Callimaco, Messer Nicia. Il dottore fia facile a persuadere. La difficoltà fia la donna. E da questo non ci mancherà modo. Avete voi il segno? È là, Siro, sotto. Dallo qua. Oh, questo segno mostra debilità di rene. Mi par torbidiccio. E pur l'ha fatto orora. Non ve ne meravigliate. Nam mulieris urinae sunt semper maioris glossitiei et albedinis, et minoris pulcritudinis cam virorum. Hoius autem in caetera causa est amplitudo canalium mixtio eorum quae ex matrice exeun cum urina. Potta di San Puccio, costui mi raffinisce tra le mani. Guarda come ragiona bene di queste cose. Io ho paura che costei non sia la notte mal coperte, per questo fa l'orina cruda. Ella tien pur addosso un buon coltrone, ma la sta 4 ore ginocchioni a infilzar paternostri innanzi che la se ne venghi a letto. Ed è una bestia a patir freddo. Infine, dottore, voi avete fede in me o no? O io vi ho a insegnare un rimedio certo o no? Io per me il rimedio vi darò. Se voi avrete fede in me, voi lo piglierete. Se oggi a un anno la vostra donna non ha un suo figliolo in braccio, io voglio avervi a donare 2000 ducati. Dite pure che io son per farvi onore di tutto e per credervi più che al mio confessore. Voi avete a intendere questo, che non è cosa più certa ingravidare una donna che dargli bere una pozione fatta di mandragola. Questa è una cosa sperimentata da me 2 paia di volte e trovata sempre vera. E se non era questo, la reina di Francia sarebbe sterile e infinite altre principesse di quello stato. È egli possibile? Egli è come io vi dico. E la fortuna vi ha intanto voluto bene che io ho condotto qui in meco tutte quelle cose che in quella pozione si mettono e potete averle a vostra posta. Quando la rebbe ella a pigliare? Questa sera dopo cena, perché la luna è ben disposta e il tempo non può essere più appropriato. Cotesta non fia molto gran cosa. Ordinatela in ogni modo. Io gliene farò pigliare. E bisogna ora pensare a questo. Che quell'uomo che ha prima a fare seco, presa che l'acqua testa pozione, muore in fra 8 giorni e non lo camperebbe il mondo. Caca sangue! Io non voglio cotesta su zacchera. A me non l'applicherai tu. Voi mi avete concio bene. State saldo e ci rimedio. Quale? Fare dormire subito con lei un altro che tiri, standosi seco una notte, a sé tutta quella infezione della mandragola. Di poi vi piacerete voi senza pericolo. Io non vo' far cotesto. Perché? Perché io non vo' far via mia donna femmina e me becco. Che dite voi, dottore? O io non vo' per savio come io credetti? Sicché voi dubitate di fare quello che ha fatto il re di Francia e tanti signori quanti sono là? Chi volete voi che io trovi che facci codesta pazzia? Se io gliene dico, e non vorrà. Se io non glien dico, io lo tradisco, ed è caso da 8. Io non ci voglio capitare sotto male. Se non vi dà briga altro che cotesto, lasciatene la cura a me. Come si farà? Dirovvero, io vi darò la pozione questa sera dopo cena. Voi gliene darete bere e subito la metterete nel letto, che fino circa a 4 ore di notte. Di poi ci travestiremo, voi, Ligurio, Siro ed io, e andrencene cercando in Mercato Nuovo, in Mercato Vecchio, per questi canti. E il primo garzonaccio che noi troviamo scioperato lo imbavaglieremo e a suon di mazzate lo condurremo in casa, in camera vostra al buio. Qui vi lo metteremo nel letto, diregli quello che abbia a fare, né ci fia difficoltà veruna. Di poi la mattina ne manderete colui innanzi di, farete lavare la vostra donna, starete con lei a vostro piacere senza pericolo. Io sono contento, poiché tu di che il re e principi e signori hanno tenuto questo modo. Ma soprattutto che non si sappia per amore degli 8. Chi volete voi che il dica? Una fatica ci resta, ed importanza. Quale? Farne contenta mogliema, a che io non credo che la si disponga mai. Voi dite il vero, ma io non vorrei innanzi essere marito se non la disponessi a fare a mio modo. Io ho pensato il rimedio. Come? Per via del confessoro. Chi disporrà il confessoro? Tu, io e Danari. La cattività nostra, loro. Io dubito che altro per mio detto la non voglia ire a parlare al confessoro. Ed anche a cotesto è rimedio. Dimmi. Farvela condurre alla madre. Là le presta fede. Ed io so che la madre è dell'opinione nostra. Orsù. Avanziamo tempo, che si fa sera. Vatti, Callimaco, a spasso, e fa che alle 2 ore noi ti troviamo in casa con la pozione ad ordine. Noi ne andremo a casa, la madre e il dottore ed io, a disporla, perché è mia nota. Poi ne andremo al frate e vi ragguaglieremo di quello che noi avremo fatto. De non mi lasciare solo. Tu? mi pari cotto. Dove vuoi tu che io vada ora? Di là, di qua, per questa via, per quell'altra. Egli è sì grande, Firenze. Io son morto. Fine dell'atto secondo